Bomba! Luca Cacarella! Luca Game Master! Luca Game Master! Hola, hola, hola! C'è nessuno su Twitch! Luca Game Master! Tutti a mangiare, sono andati, dai! Ciao a tutti! La chiama, potete chiamare? No! Ancora no! Fra 5 minuti vado, forse anche dopo. No, oh, non ho molta voglia. Non mi risponde perché fa mille messaggi. Non è così. Cacca di su. Ti su bollire, che non c'è bisogno. Che bollire, non ne ho bollire. Sta pompando un bel. Adesso ce l'ho, guarda. Guarda la differenza. Non c'è niente buono, 9,20 sì. E poi si è andato a 9,25, quasi 30. No, non ho nessun bullone. C'ho solo il Galaxy. Signor Galaxy. Va bene. Ma usi anche quello là, già, quello MBP5. Fallo andare, perché sento già un po' di visione col Galaxy. Ho capito che ti piace, adesso sta funzionando tutto bene. Però fa andare anche con l'altro. Con il microfono ha bisogno di essere usato. Usa tutto. E io mi ho fatto lì le foto. Mi ho fatto lo spazio, guarda. E c'ho due basi, magari me lo voglio fare tutto ammontonato, quando c'ho lo spazio. C'ho due sedie d'ufficio, quindi una base, ho messo tutte le radio che hanno dentro l'armadio. E senza usarle, due messe lì, adesso domani mattina metto anche il precipizio, due messe tutte lì da una parte, con i microfoni tutti da tavolo, e da questa parte mi sono fatto la zona amatoriale, basta, e siamo troppo mucchiate le cose che... Cosa è messo tu? Un canarino? Ero crescente così, buonasera! Intanto non ti conosce nessuno con quel bip che c'hai. Questo è mitico, eh! E allora, che si dice? Mi hanno dato la foto quando hai trovato la molla? Ah, pa, me l'ha data, Fuggiaro me l'ha data, di quell'antenna che c'era esposta nella... come cavolo si chiama, nella vetrina, dice che c'erano dei pezzi che mancavano, eccetera eccetera, via, mi ha regalato la mulla. Stavano andando a prendere il miscelatore per l'antenna, dell'antenna di deposito. Aspetta che ce l'ho, e me l'ha procurata. Grande, hai visto? Siamo piano un po', basta chiedere, una mano lava l'altra, tutte e due lavano la faccia, tu sei suo cliente, spendi i soldi. Quella lì non le è costata niente, te la latta. E così bisogna fare. Aiutarci. Appena si non è che mi fa capo mi pongo la doppia antenna. Ciao Antonio! Buonasera Gianni, buonasera. Sembra che mi fa capo mi piace la doppia antenna. E che mola te l'ha dato? Perché antenna te l'ha data? Per l'altra Ringo, per quella che mi ha dato Babbo. Ah, perché? Ma fischiando sta? Beh, appena. Babba, tu rendi a rubricarti sul microfono, mi attaccami e va. Cosa? Il microfono, questo è 3009, non te ne sei accorto che ho cambiato. Ma cosa c'è? C'è una bomba, cosa c'è? Mi sembrava che stesse fischiando, buco. No, non sto fischiando niente, no, non abbiamo domande. Gaba, adesso hai ragione tu, si inserisce subito il lock. Anche il mio me lo devo fare così, sono geloso già. Ho sentito veramente bello quello, cacca lo sfiori e va in blocco, il mio lo devi fare con più forza. Prima questo qua lo dovevo premere per più volte per sbloccarlo, per farlo, invece adesso è morbido, proprio zetta tranquillo. Oddio. Andavè, Antonio riprendi, ti stai sempre potenziando di più, cazzo. Me l'ha data e me l'ho messa da parte, niente di che. Già basta ghita, ma E sì, ma fra 5 minuti mi busco le staffe e la metto più su. Ne metto una più su e una lascio qua. Doppia antenna, ma va, che cazzo me ne frega. Magari una poi decido di toglierla. Ehi, eia, andare. Ma basta una e avanza. Ehi. Se funziona bene la lascio stare, poi quando ci succede qualcosa ce l'ho. E appunto tieni di scorta, perché quelle antenne lì sono un po' balorde, con l'umidità prendono quelli stazionari, hanno quel problema. Ma non esageriamo, arriva 1,5, arriva 1,5 qualcosa, ma non esageriamo. Beh, 1,5 non sono poche. Se attacchi un lineare ti anda a fondo scalo. Aspettate un secondo, arrivo subito, devo andare a coprire il mio cappellino come sto facendo la pipì addosso. Già, basta non attaccarlo. Parli come non parli e funziona lo stesso l'antenna. Cosa vendrà? Ma tu avevi intenzione, Antu, cazzo, capiamoci, no? Ehi, chi ci quando lo fa stazionare già funziona, non ti preoccupare. Ehi, aia, andare. Oia. E che vuoi che ti dica? Vedi tu, vedi tu, vedi tu. Oia. Cazzo, stamattina ho messo l'antenna. Non ci avevo dimenticato proprio l'antenna, no, che si può passare sotto un albero, sento BAM! Sta rola. Ma lei non gli hai fatto niente? No, si è solo piegata, si è abbassata. Mi sono fermato, l'ho rialzata, l'ho ristretta. No, non ha fatto nemmeno danno, la verità. Cazzo, la calamita ha tenuto, bella solida, cazzo. Si è abbassata l'antenna, ma la calamita non si è staccata. Ma vuol dire che è buona? Vuol dire che è buona, che magnetica stai usando? La 22, quella grande. Ma dico, Shirter, che marca è? Sempre LEM, sempre LEM. Sempre della LEM. Io ne avevo una, ne avevo. Sì, quella della LEM. Guarda, ne avevo una della Shirter, la conosci? È una gannonata. Funzionava, che era una meraviglia, cazzo, quella base magnetica ce l'ho giù a Milano, ce l'ho. Cavolo, già, funzionava bene proprio. Si conferma, si conferma, maia. Ehi, cra, ho letto del torrato. E questo che sta grattando chi è? Basso. Lo senti, 705 arriva qua. Cazzo, c'è stata un'esplosione qua, una cosa... Boom! Ma... un azzocco. Aspetta la cara se ci richiudo, vedi che dai bugioni, con le bombe a mano. Io sparo con la pistola, non ho bombe a mano. E anch'io ce l'ho la pistola, non ti preoccupare. Ma c'è il vento di Garfucci. A salve allora, già che sei un po' bruito. A salve, spara. Ma pure io ce l'ho. E tanto, a me è vera però, denunciata e tutto. A me è vera, no, io ci ho credito anche i veri, no, certo, non l'ho portato, no, ce l'ho lasciato ancora. Però mi compro la salve. Se si può, non lo so, vediamo. Vediamo, se sono in campagna va bene, ma qua che era un negozio, si vede la via Amata, grazie mamma qui. La via Amata a me mi esce da sopra, invece che dalla canna, perché la canna è otturata, eh? Esce da sopra. Ma invece esce da avanti già, esce da avanti la mia. La mia mano 421, è dentro la sua custodia in ferro blindata. L'hai conservata dentro l'armadio, la chiave ce l'ho sempre io appresso, non tocca a nessuno. E cosa ne fai? Già, ce l'ho, cosa faccio? Ma la prendo. Prima la porto io, con Franco, poi Franco non c'è più voluto, andiamo con altra gente, poi non ce l'ho più andata. Così ancora la tengo, ce l'ho rinunciata, ce l'ho portata per uso sportivo. sono anche, c'è un poligono di tiro andando la strada dei due mari lì, dove vanno tutti, andava anche Natalino lì a tirare. E lì paghi un tanto e ci vai quando vuoi, ti fa la tessera e ci vai quando vuoi, senza pagare. Sì, lì lavorava io, c'è la pizzeria, lì si gira, c'è scritto poligono, c'è la pizzeria a sinistra, poi c'è la raffaella bianca, sì, nel fondo c'è il poligono, lo conosco, sono andato anche io, non a tirare io, sono andato a vedere una gara che c'è. Anche io sono andato. È bello come poligono. E io sono figlio con il mio, gli ho chiesto, era vicino. Vabbè, me lo fanno anche io, Franco, però poi lui si è ritirato, quindi... ho avuto la separazione, un po' di casini, si è ritirato, quindi io mi sono un po' abbandonato, però adesso vediamo, adesso è sempre ancora un altro, poi tardi da poco, avanti bomba, no? Pure io, non è vera, però già ce l'ho, bellina, no? Ma la mia è vera, però, è già l'ho vista, bellina sì, la mia è vera, pesante pure, è una 9x21, quella che usavano prima i carabinieri. Fate poco di casino, mamma mia! Io la devo mantenere con due mani, oh no, te la tira indietro. È un bel po' sentire con la pistola, ma come ha detto che doveva avere migliore che avevo fatto. Vabbè, vabbè, lui è, e allora, la figlia qui, se l'ultima ancora. E chi si sa da me, ti posso la canna ruglia ruglia. Ehi, non te la posso fare, se no la faccio una mela che è una ruglia. Se non la per 21 corta. È proprio un bici, ragazzi. Questa è la 9 per 21 corta. Questa è quella che hanno dotato la vigile urbana. Yeah. Si sentire due spade. No, due spade. La mia, mezzo chilo pesa. La conosco, è bella pesante. Bella pesante. Che appagata. A poco mi diamo un microfono. Non me lo prendo e li parlerò. Oh io. Andrebbe. Precisa già, solo che una è nera e l'altra è di colore argentino, cioè con di un altro colore, argentato. Ehi, altro più o meno sì. A me me l'ha fatta una persona bene, perché c'avevo qualche problemino, ce l'aveva. Minchia! Non sai come va. A ripetizione va. Anche la mia. Però a volte si inceppano quelle pistole, quelle semiautomatiche si inceppano. Anche quelle vere. Sì, si è fatta bene, a punti di neo si inceppa. Proiettili sono. Sì, è un po' molto, ma la gamma invece c'è tappata, poi da bella treccia questa. Avevo parlato a cosa a Pasquali, mi avevo fatto togliere Franco, avevo parlato anche un sacco di sciuti, perché una beretta 9x21, 9x21. È bella, e Pasquale c'ha roba bella, la verità, roba molto molto molto bella. Questa simile alla mia già, però mi sembra c'è quella canna lunga, il manico più lungo, la mia è molto maneggevole, c'è anche la custodia che si attacca al fianco, quella bella. Eia, sì. Questo qua esce meglio o peggio del Galaxy come microfono, Claudio? No, bella è questa, bella corposa, tonalità medio-alte, medio-bassi corretti, va bene già. Con quella radio io te l'avevo già detto, infatti quando te la toccata la bella microfono si rompe il gomo. No, parla meglio, te lo sistemo io. Esce veramente molto molto bene. Io già avevo fatto qualche modifichetta, avevo cambiato la capsula. Vedi che sta fischiando, ma c'avevo ragione che stava fischiando. Oh yeah, aspetta, così non fischia più. No, quello non è un rientro del microfono, quello è qualcosa che sta percependo lì davanti a te. Capito? È troppo alto, non c'è bisogno di metterlo a 10 il microfono, cioè. Lo puoi mettere anche a 8, o 8, 9, va bene lo stesso, è troppo alta, è per quello che ti fischia, magari per mettere un altro fatto attaccato alla radio. Prova così, era troppo attaccata alla radio forse, prova così. Va bene, va benissimo lo stesso. Vabbè, dai. Anche così non fischia. Oh, sta fischiando? Innesca? No, non innesca niente, si tendevo la ventola, che non l'ho mai sentita, le altre forze alla radio, non tu. Ma non è che va a casa parecchio atteso? No, anche. Sicuro? Come fa a dire che ti fischia, scusami? Perché lo sento. Mica adesso sta fischiando, vedi? E perché? Dove ce l'hai il microfono? Sopra la radio, vicino alla radio? No, ce l'ho lontano. Adesso non sta più fischiando, così è. No. Ma le stai mantenendo la mano vicino alla cassa? O hai la mano sopra la cassa? Perché a me non me lo faceva. Vuol dire che lì c'è il piano di massa un po' da correggere, capito? Troppa alimentazione, troppe radio una vicino all'altra. Ehi, a quel cavetto ce l'ha per quello, per non farlo fischiare sicuramente. Capito? Magari fischiava, gliel'ho messo quel cavetto per fare la massa. Comunque così non fischia, dai, ci vuole regolata appena appena indietro. Così non dovrebbe fischiare, confermi? Sì, è una bestiolina, è vera quella, un po' diversa, si vede che è vera. No, già non fischia, perché no, ma quel cavetto, quel ponte che hanno fatto, non era un cavetto di massa, era un ponte fatto alla cazzo di cane, capito? Poi dico, poppare, chiunque l'abbia fatto, non si fanno quelle cazzate lì, quelle cagate, capito? Perché se vuoi mettere un filo di massa in modo che non ti, lo metti esterno, non interno così, capito? Per passare un filo fine, nero, leggero, come ho sempre fatto io, che non si vede neanche, dentro lo spiralato, e fai da connettore a connettore, capito? Dalla massa all'interno, lo colleghi alla rovescia, il connettore del spiralato, da lì, e poi lo mandi al connettore che va alla radio, ok? Quello è un lavoretto semplice, ma che fanno un po' tutti, ma non che sono ponte di vera, dal positivo, dell'alimentazione, del circuito stampato, alla capsula, ma cazzo cosa da fare? Questo è un fischio di rientro, ma percettibile, ma Guido era proprio un innesco. Cappa, andava, vabbè, adesso lo lascio così e parlo mentre sto chattando, quello è la comodità dell'occa. Tanto adesso me ne sta andando. Comunque mi hai mandato solo la parte di davanti e quella di dietro, di lato non me l'hai mandata per vedere. Quella studia lì. Quale? La pistola? Ah? Ehi? Come me l'hanno mandata? Esce a vedere. Sì, è arrivata, dai, è arrivata. Sì, ho capito. E rimane più corta della mia. Più corta rimane. Là. Sì. C'è qualche problema che ti sa che è vero. Questa 9x21 corta, sì. Quella lì è un'imitazione di una 9x21 scacciacani, però è lunga, capito? Perché con noi fa buca. Questa buca, questa giocando con Franco, come dire a Franco, in campagna il foratino lo spaccava in due, ma la spaccava completamente. Una bottente a sabitura allucinante, e ci che la rimettiamo dentro la sciacquistoria e la richiudiamo dentro l'armadio. E non la porta del cane? E adesso vado classe, no, bovaraccio, mi sta già guardando. Come saluto si nibesa, capisce subito, là. Adesso vi saluto, buona serata a tutti, e io faccio il corretti, là. Porto giù il cane e poi magari, non lo so se riaccenderò, forse guardo il televisore però. Dai, ci sentiamo, statemi bene, ciao! Ciao già, a domani, ok? Non hai capito, ciao! Ciao già, ci sentiamo, dai! Ok! E tu, già fatto? Si è già mangiato, Aggio! Si è mangiato tutto, e tu devi ancora mangiare? Sì, allora ho lasciato mia figlia! se fanno volare un po' di TV, ma c'è la temella, ma fanno un quarto, e siamo a papà, già tutto pronto. Scappa. Oh, mamma mia. Meno affari ci fanno in questo periodo, vero? Cavolo, è un casino, ga. Invece era stato tutto aperto, sarebbe stato ancora lavorando. 10:30, 11 eravamo a casa. Il sabato, il venerdì e il sabato anche a mezzanotte, l'una, l'intero ma c'è traffico. Allora ti posso dire, grazie a Dio, oggi ha fatto fuori tutte le parti, se è scelto qualcuno alla porta, invece oggi niente, quindi ho lavorato bene alle colazioni, all'aperitivo, poi dalle 4 fino alle 5:30 assieme a un quarto. Ho lavoricchiato, vai, e va bene, e ho già fatto. Purtroppo così devi prendere alcune passi al convento, pazienza. Un casino, no, diciamo che in punto che è si poteva fare molto molto di più. Perché anche tu sai benissimo che lì, in condizioni normali, soprattutto il sabato c'è la discoteca e gira un sacco di gente lì, un sacco, poi un po' se ne vanno, perché quel bar, chi ce l'aveva prima? Asa quanto lavorava, cazzo, la notte passavi, era a bomba lavorava. Beh, era a giugno la presa, quindi... Grazie a Dio ha lavorato molto molto bene, sta lavorando molto bene, ma anche adesso no? Non si può lamentare, è chiaro che molto meno, però che si può fare. Certo ci avrebbe dato un paio d'ore in più, almeno fino alle 10 tutti e poi lockdown totale, invece la regia di fare era niente in giro per i fare fino alle 10, chiusura totale e poi lockdown, tutti a casa, poi fino alle 9. In più sono tante. Ecco, ma sto dicendo che venerdì e sabato, perché la domenica è chiusa. Venerdì e sabato anche la di notte chiude, la domenica e mezza, sempre pieno. Ci lavora un bel giorno, ecco perché ha scelto quella zona, capito? Lavora un bel po' più di essere andato, l'ho visto quanto è bella. Sono fatta nuova, mi ha tu. Sì, sì, lo so, lo so. Io mi ricordo che comunque... poi quando era tutto a posto, che non vedo tutto il casino, facevano anche musica lì dentro. Certo. C'è il piano terra, poi c'è il sottopalco e poi c'è un altro sotto anche. E tre piani. Io me lo ricordo anche quando era diverso un po'. Me lo ricordo. Prima di essere ristrutturato mi ricordo quando era diverso. Insomma, sei qua, quel bar lì ha sempre lavorato, sempre. Purtroppo avrebbe potuto fare molto, molto, molto di più. Non è che vedi tutto quanto questo casino. Se no, altro che l'una di notte, se ne andava a curare i due. No, vabbè, ma l'aria non si trattiene sino a terra. C'è quello di Martinez che rimane a becco di sarebbe il 4 Manzano, no? Sono due ragazze, già le viste, e quindi chiude presto, prima di iniziare questa restrizione, 10:30 era già a casa, alle 10, non bisogna strappare, capito? Purtroppo quando sei così, io sto andando tutta la cena a prenderla perché mi carico la bombetta in macchina, perché sono per fare da lì da via Roma fino a via Bellini, a Pira, a buttare la bombetta, e ci mi carico tutto io, le bottiglie, solo il vetro scarica che c'è la cassonetta davanti, la plastica tutto il resto me la porto e la metto nei cassonetti qua vicino a casa che ci sono i cassonetti, capito? Ho visto oggi c'era una bella busta di roba, due buste grandi, quindi già lavorato, non c'è problema. Poi mi ha detto che ha fatto quasi mezzo milione di vetro, quindi già è andata bene, dai. Non si può fare diversamente, purtroppo io spero che ci sia un livello minimo, insomma, e che questa cosa veramente sparisca dalla situazione, sarà solo un ricordo. Però ancora dobbiamo soffrire e che attività come il bar sta arrancando, tanti colleghi di l'aria stanno arrancando forte. Un caso. casino, eh. Un casino lì. Però se lavori bene sulle colazioni e poi lavori bene la sera su altre cose, diciamo che ce la fai, da, ce la fai. Sì, io non ci sto lamentando, quindi ho visto che si è parlato le sue cose, ha messo anche la parte, quindi vuol dire che già sta andando, non sta andando al 100%, ma al 75-80% sta lavorando, e purtroppo così, sono tutti così, sono tutti così. Ti ripeto, spero che possa andare meglio, affronti i bossoli, però per il momento già va bene. Casino, un casino, ma hanno buttato in ginocchio pure locali che lavoravano forte, tipo quello dove porto io le bombole lì a Corte Santa Maria. E cavolo, pure a noi le bombole consumano, cioè se no 4-5 bombole a settimana va, ma la pena su due, cioè mica è tanto, mi bisogna un po' di dinaro, un po' di dinaro pesce bisogna. E poi quel locale lì è un locale grosso, cioè un locale che potrebbe lavorare tantissimo anche. Ma è un casino, è quello che c'è Umberto Graziani, quello dei Tre Sardi, ce l'ha lui, ce l'ha. Non ho capito quale, sì, ce lo conosce nel figlio. E erano molti così. Dove lei ad esempio ha rinunciato alla cucina, perché in questa recensione cosa cazzo cucina fa? Boh, non fa però, quindi niente. Però stanno andando molto i panini, stanno molto i canellini, tutte le cose che ha, insomma. Già va bene, è importante già variato. Quando facciamo mettere così, se tu consideri una figlia, il primo stage l'ha fatto Babello, proprio via Roma, era in terzo alberghiero, sarebbe. Quando si è trovata in quinta era alla catena dei migliaia di Urbia, che è una multinazionale, la volevano portare anche fuori in Spagna perché è spagnola, siccome era minorenne, hanno detto no, e poi subito dopo è entrata la Mecchidona, si hanno fatto quasi 10 anni, perciò adesso ha fatto la sua esperienza, adesso penso a lei, c'è il bilancio. Appunto, ma ha travagliato pure una cosa da Gherkin, in Chim, via Tempio, altri sbagli. No, non è fammi vedere, ma no, non c'è andata lì, stava già lavorando, capito? Allora anche Sandrino via Napoli da poco, ma che non ha che poi andati giù, no, non più bisogno di niente, va bene così. No, ha fatto McDonald's, poi il break, un po' di anni, e poi ha preso questa decisione. E già andare. Aveva ragione, io. Ma come ha fatto, è a cazzo suo, cioè non deve nulla a nessuno, almeno. Ha fatto bene, ha fatto. Tanto. È inutile che ti... Io sono a trovare il coso. Sandrino ha travagliato un bel danno, non so cosa sia successo al Trisbar, non so cosa sia successo, e poi si è aperto il coso in via Napoli, il bar, però sicuramente è successa qualcosa, però, che me l'hanno messo accennato con Amedeo, hai capito? Ma non so neanche io esattamente cosa è successo, so che è andato via e si è messo a conto suo, sta lavorando Sandro stesso. Lavorando, si conosce bene con l'aria, si conosce, io ci guardo la mattina a volte, dipende, così, magari è un aperitivo, una cosa, ma di solito vado sempre alla mia figlia, capito tutto, andare, cosa arriva, purtroppo sono decisioni che devi prendere, se vuoi realizzarti, senza dare un culo all'altro, hai capito? La flessa ha spaccato il culo a me che ero, ma anche al tie-break, faceva anche i turni notturni via tie-break, e lì è la voce che ha fatto provocare il vaso, se no stava bene, era ben pagata, ma ti bello, una ragazza che ha fatto 32 anni, tu la devi buia la giura, due volte, tre volte, la quarta volta gli ha detto ma domani ti arriva la lettera di dimissione, ma da domani gli arriva la lettera, ancora italiano non l'hai capito bene tu. E qui ce l'ha fatto, non è che è fatto lì a girarci le balle, ma non posso neanche un giorno di lavoro, perché ha fatto da lì, andando da Martinez, e poi nel frattempo stava preparando tutta la sua cosa, capito? Ho capito. Già sono più castigati, magari già si bagano, però sono un po' cari più castigati, so. Chi si pare che non strappa e rompere il cazzo, cioè, ma almeno la fianca la fai un po', cioè, o la fianca la con qualcuno, cioè di notte non è che sia tanto una cosa simpatica, dai, almeno la fianchi con qualcuno, non so. Ma ragione, tu sai quanti notti non dormivo io quando la mia figlia faceva la mezzanotte alle 6, sai anche io che ci buttavo la macchina e la moto perché era estratto e andavo, e quante volte mi chiamava papà svegliaci, e sì, sono sveglio, avvicinati, c'è una greffa che non mi piace per niente, e mi avvicinavo, capito, non va bene cazzo, ma tu vai a dove fare i figli, e non solo lì, ma se ne sono andate anche altre ragazze perché le metteva di notte, ma ragazzi non mi bevo tutto il bene, vai due di notte, aveva 6 o 7 ragazzi, perché era una trentina dipendenti, metti i ragazzi la notte a turno, che cazzo metti le donne, imbecille. Se no mischi, fai uno e uno, fai un uomo e una donna, è già un po' diversa la cosa, mischi. Così dovevi avere due extra notturni, capito? Uscito via da troppi di notte, non conviene, capito? Lascia perdere Renata, mia figlia, Renata. Renata e Becchi ha sofferto tantissimo, anche a 5 anni ha fatto. Perché ha fatto per Becchi e per i cuffi. Faceva la scuola giù alla Auchan non alla Auchan, come si chiama? Alla Auchan, l'altro che c'è in questi giorni. Dopo che c'è a Cagliari, capito? Da lì facevo una settimana lì e una settimana su e una settimana giù. Ma che come lo pagavo il biglietto? Ma per scherzare, alla fine ho detto basta, boh. Siamo contenti sia io che mia moglie, ma soprattutto è contenta di realizzata lei perché almeno è tranquilla e serena. Va fatto come ha fatto. Sono sacrifici si fanno, per un po', sono meglio a McDonald's, cioè, no, veramente, no, roba da mancanti qua, roba da mancanti, cioè, non si può, dai, non sono cose da farsi, questa, purtroppo so gente che non capisce niente. Cioè, non è che non capisco niente, non vogliono capire, non vogliono, perché sono ignoranti, sono. Cioè, magari qua devi farli fare tutti quanti, cioè, boh, verano. Incredibile. Cioè, con rischi, con sempre con l'attenzione. Cioè, sempre una ragazza, mi posso capire un uomo che è diverso. Cioè, un uomo è una cosa diversa. Ma una donna sola, incipi, entra tutti quanti che c'ha niente strana. Non va bene, dai. Non va bene per tante cose, non solo perché mia figlia, per tutte le ragazze. Le ragazze devono lavorare di mattina e di sera in compagnia, ma non è che la buona la sera di notte. E cosa sto dicendo? Sai quante volte sono andato? No. Al primo luglio. A giugno. Praticamente hanno finito i lavori, tra sistemare tutto, primo luglio, un po' 2 luglio mi sembra abbia inaugurato il via Roma, quindi conta, luglio, agosto, settembre, ottobre, 4 mesi, a novembre, cazzo, d'ora di investizioni, ai ai ai. Mamma mia, un casino. Cazzo, io sono molto convenuto a travagliare di più in discoteca, guadagni il burro di più la notte. Non so quanto pagava, non so che pagano, mi pare che sia 150 euro a notte. E poi cocktail, tanta e sta roba. Non so quante ragazze e ragazze ci lavorano. Ma non piace a mia figlia fare questi qui a voi. Mia figlia è nata dietro il bancone e piace quello. E quello ha scelto di fare il suo lavoro. Ha studiato per fare quello. Ha fatto, mi ha finito da poco il corso di caffè arte. Quello che fanno i disegni, quando prendi il cappuccino che ti fanno tutti i disegni murati. C'era l'attestato, ho fatto un sacco di corsi, c'era l'attestato di bar, ma c'è un sacco di cose da dire. Ma il peso di quello è il suo lavoro, la sua scelta è quella, le piaceva quello, ha studiato per fare quello. Non ho mai fatto discoteche e la arrabbiati, no? E cosa va? Io vedo professionisti che vivono puro. Ma non è così, no. Vabbè, ognuno poi ci sceglie il suo ramo, si sceglie, perché... cioè uno travaglia una cosa, uno travaglia l'altra, cioè bisogna essere bravi, mi prendi che si cocca e tre che si gode. Ma tu vedi uno una notte gatto che era un mostro, un fura di gabbo, cazzo ti fatti a te queste cose, ma cioè cazzo curava, ti fatti a curare questa cosa, che so, è bravo era che so. Vabbè, ognuno poi si sceglie il suo ramo, cioè. E mi sembra che sia proprio quel corso lì sia. Però ognuno poi fa il suo corso. C'è quello che piace così, a quello che... Il corso da barman, un'altra cosa, non confondere il barista col barman. Il barista è quello che sta dietro il banco, al bancone. Così è. Il barman, che cos'è il barman? Mia figlia, per un attimo, cosa stai dicendo papà? Il barman cos'è? Non è quello che fa il coso, il coso, no, il barman è il barista completo, dalla caffetteria e al cocktail di notte. Ecco. Barlevi, sai io. Barlevi, come sei tu? Ecco mia figlia. Uguale, precisamente, dello stesso corso che ha fatto mia figlia. Esatto. Capito? Mia figlia ha un Barlevi completo. Dalla caffetteria, barman, cocktail, di tutto. Sì. Comunque salutone, già ci siamo visti in via Roma. Un giorno sono venuto a prendere una bottiglietta d'acqua. Sì, me lo ricordo. Cioè, l'ho visto quel corso lì. È bello, bisogna essere bravi, mi cavolo, bisogna imparare a fare ciò. Perché anche il cocktail e tanta questa cosa bisogna saperla fare. Sì, ti ho visto prendendo l'acqua. Gli ha tornito anche. Ma proprio cosa aveva di che a Roma, fuori zona e... Allora sai che vado a scuola guida. Io vado dappertutto, non ne ho zone. Ah, scuola guida, cosa ce l'hai perché lì? Piazza Farino. Ah, ecco, poi sei salito lì. Sì, ma infatti me l'avevo detto, ma sei piccato dietro. Guarda, ho visto al bombo, è venuto a prendere la bottiglietta d'acqua, ma però è incasinata, capito? Poi mi sono andati in via. Tutto vuoi venire di giorno e fammi. Fammi vai, no, io ti ho già mangiato, va per voi, mangiate alle 6:30, così è. Ehi, cazzo, sono andato per 20 già, vai, ti saluto anche. Se ci sei magari già entro l'oppo, ok, vado a pappare che c'ho fame, eh. Ciao, Anto, saluto. E sì, dai, ci sentiamo. Ciao. Ciao, Anto.